Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le briglie del paese. E Dio briglie, perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta l'antistorica uguaglianza. Ma che vuol dire? Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore? Madonna d'un Dio! Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro! Bravo! Perché se questa è la democrazia, sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Genieri, fuori i ramponi e sabotate le linee! Caimani, pugnale fra i denti e distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo, questo vostro infame! Evviva l'obbedienza! E vi raccomando! Erano altri anni. Il film di Monicelli, Vogliamo i colonnelli, è del 73, ma già era un film che ironizzava sul famoso tentato golpe borghese, che era qualcosa di cui ancora i margini non sono ben chiari. C'è stato un golpe, ci furono veramente forze dello Stato che in quella fatidica notte si asserragliarono, acquartierarono in alcune caserme romane, partirono le guardie forestali da Rieti con l'eroico loro comandante, volevano conquistare Roma, conquistare la RAI, c'era tutto un piano pronto perché i militari prendessero in mano il paese, che andava allo sbando. Erano anni in cui stava per trionfare il comunismo e quindi si voleva fare il golpe. Se ne è poi parlato poi per tanti anni del golpe, vari paesi venivano fatti dei golpe, però in Italia il vero golpe non è stato mai fatto. E rimase un po' nella nostalgia degli italiani il fatto che ci volesse ordine, ci volesse disciplina, basta con la democrazia, o perlomeno un periodo di sospensione della democrazia. Perché? Perché è un momento in cui la democrazia in realtà porta questi risultati. Le strade sono sporche, piene di rifiuti, l'Italia è invasa da stranieri, i nostri valori sono fortemente inquinati, si vedono girare uomini e donne che si baciano per strada, insomma i peggiori abomini. Se venissero militari, probabilmente tutto questo finirebbe. Ci sarebbero persone tutte allineate, persone tutte disciplinate, e verrebbero fortemente represse tutte quelle scaturigini di caos, di diffusione del pensiero sovversivo. Insomma, si starebbe tutti meglio. Sembra paradossale questo mio discorso, ma mica tanto. Oggi se ne parla perché Renato Farina ha preso lo spunto e l'ha consegnato comunque a un'autorità che altrimenti non avrebbe avuto, di un sondaggio che è stato fatto in un sito che si occupa di economia, di analisi politiche, analisi sociali, via dicendo, che ha provato a chiedere, il sito si chiama scenarieconomici.it, ha chiesto ai suoi lettori, quindi le persone che probabilmente sono omogenee, immagino, poi ce lo confermeranno, ce lo smentiranno, alle persone che gestiscono questo sito, dice: ma voi sareste d'accordo che in Italia ci fosse un golpe militare? E hanno fatto tre domande dicendo: se ci fosse un golpe militare, voi cosa fareste? Domanda A: scenderei in piazza, mi opporrei anche in modo violento. Solo l'8% delle persone ha detto si opporrebbe. Nessuno si metterebbe di mezzo se scendessero i carri armati nelle nostre piazze italiane, piene di pantegane, di buche, di tutto quello che volete, di gabbiani, di cinghiali. Però se andassero all'assalto dei palazzi del potere i carri armati, solo l'8% si opporrebbe. Altri, un consistente numero, ma non il numero ponderante, se ne starebbe a casa, vede che a tira, valuterei l'operato del nuovo governo, il 20%. I prudenti, pronti a cambiare casacca, pronti con una divisa degli stivaloni lucidi o in alternativa con uno scamiciatino e delle ciabatte infradito, a vedere come butta. Se qualcuno contrasta il golpe, si scende in piazza, finalmente siamo liberati dall'opposizione e dal dominio. Se vincono i militari, tutti in piazza. Così, capito? Era, diciamo, l'urlo della folla questo. Ma la cosa che più sorprende è che il numero preponderante delle persone che hanno partecipato al sondaggio, che non sono pochi, sono quasi 5.000 votanti, 4.791, ha detto che appoggerebbe al 71% in modo attivo l'operato del governo militare. Quindi si vedrebbero i militari con i carri armati, con le divise, con i loro plotoni schierati che vanno casa a casa a cercare i sovversivi, accanto delle truppe di fiancheggiatori con la fascia al braccio, con non so, un segno qualsiasi di riconoscimento, con armi improvvisate, con delle divise da fiancheggiatori. Andrebbero gli umarell probabilmente casa per casa a tirare fuori quelli che si oppongono a questi portatori di ordine. Voi come la pensate? 800 24 00 24, voglio ripetervi la domanda: se ci fosse un golpe in Italia, un golpe di militari che, guardate, riporta l'ordine, la disciplina, le strade pulite, i treni che vanno in orario, i topi che vanno tutti in fila dietro al pifferaio e vanno a affogare dentro il Tevere, magari nella città di Roma, non si vedono più politici che rubano, soltanto persone oneste, il sabato si va tutti a fare sport, a saltare nel cerchio di fuoco, che finalmente le donne fanno le donne, stanno a casa, cucinano, stirano, si occupano del piacere dei loro mariti, e gli uomini fanno quello che fanno gli uomini, fanno una mazza e fanno finta di lavorare. A tra poco. Melog, Cronache Meridiane. Quattro imbecilli, uno potrei essere io e altri tre di voi, possiamo fare un cazzo di colpo di stato all'italiana. Come si fa? Presto detto. Come funziona l'Italia? L'Italia funziona a conoscenze. Un favore, io ti do una cosa, tu me ne fai un'altra. Vuoi che uno non c'ha un amico, ci è andato a scuola insieme, oppure conosce, che fa il militare? Vuoi che questo militare non conosce il cappellano militare? Vuoi che il cappellano militare non è così col generale? Ed ecco che siamo andati a prendere il generale. Vuoi che un altro stronzo non conosce lo zio del cugino del nipote di uno che fa il barbiere alla Camera dei Deputati o al Senato? Ecco che riusciamo, tramite lo zio del nipote, di arrivare dentro la Camera dei Deputati o al Senato, o addirittura conosce lo zio del cugino del giardiniere che poi lavora come manutentore dal Presidente della Repubblica. E ecco che siamo arrivati ai capi della gerarchia della politica. Quindi per adesso ci abbiamo massoneria, ci abbiamo forze dell'ordine e ci abbiamo la politica. Vuoi che non c'è uno di noi quattro che c'ha una zia che va sempre a messa, quindi conosce il parroco, e il parroco che è andato in gita a vedere il Papa a Roma sotto al cupolone e ha conosciuto quello lì che gli fa fare tutto il giro dentro ai giardini con l'opera dei pellegrini, e quindi siamo entrati anche in Vaticano. Che ci vuole a fare un golpe? Ed è sentito, questo è un ragazzo che ha un suo profilo su YouTube e che racconta come potrebbe essere semplice oggi, nell'epoca dei social, fare un golpe. Bisogna creare una rete di intelligence, una rete clandestina, lavorare sui contatti, partendo da molto lontano, sulle triangolazioni. Anche una zia che va messa può arrivare al Papa, anche il barbiere di una caserma può arrivare al generale, anche si arriva comunque a colpire tutti i poteri, i potentati, la Chiesa, la politica, i militari. Ecco, si può fare un golpe facilmente. Questo quindi galleggia nell'aria questa idea, non è così peregrina, non è così lontana l'idea che forse qualcuno che porti ordine e disciplina serve in questo paese. Gaetano, buongiorno. Buongiorno a voi. Gaetano, niente, molto velocemente, se le facessi queste tre domande, se ci fosse un golpe, lei cosa farebbe? Scenderebbe con i militari in piazza, si opporrebbe o starebbe a casa a vedere che aria tira? Detto in questi termini, forse starei a casa, ma per il semplice motivo perché avrei paura del golpe in cui l'ha determinato lei. Cioè, qui ma farebbe aspettare che i militari facessero, diciamo, le giuste operazioni di pulizia, mettessero, diciamo, i sovversivi al confine, fucilassero un po' di persone, altri ne facessero sparire, altri li buttano dagli aerei dentro l'acqua come facevano in Argentina. Poi, una volta che è tutto a posto, se vincono loro, lei scende e si allinea con loro, va subito a stringere la mano. Questo fa. Pronto? È stata l'emozione troppo grossa, Gaetano, non ha retto all'emozione di trovarsi di fronte a questa domanda. Paolo, vediamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, un po' di ordine in effetti ci vorrebbe, perché comunque allo sbando come siamo adesso non è che stiamo andando molto bene. Lei è d'accordo con Alberto Sordi, borghese piccolo piccolo, quando si va a filiare alla massoneria, gli dicono che ne pensa la libertà, dice una bella cosa ma ce n'è un po' troppa, così è. In effetti, vediamo anche che ci sono delle persone, io pago le tasse, faccio tutto quello che devo fare, però se mi fermano con la macchina io sono a posto, passano i rom con le gomme lisce, e non gli fanno senza nulla. Assicurazione, e non gli fanno nulla. Quindi... E in questo caso, secondo lei, diciamo, un governo a base militare cosa farebbe, come si comporterebbe, secondo lei, come se lo immagina? Se i militari entrassero nei sacri palazzi, trasformassero nel bivacco per i loro manipoli, cosa succederebbe di positivo il giorno dopo? Questo non è facile da dire, intanto... Secondo lei, come se lo immagina? Tanto ma io me lo immagino all'italiana, quindi niente stragi, niente di tutto quello che di dire. Magari non gli danno più l'olio di rice, danno il Guttalax oggi che c'è qualcosa... Sì, ecco, qualcosa di molto più blando, anche sì. Perché non la suppostina effervescente, quelle cose che non fanno male alla fine. Sì, esatto, i nostri militari non sono violenti. Però le persone che ci limitano la nostra libertà le metterebbero da qualche parte un pochino, no, non è che può lasciarle così impunite, qualcosina si dovrebbe fare, a lavorare magari. Posti, possono andare a lavorare nei centri di accoglienza, dare una mano lì finché non li sistemiamo. Ma scusi, ma centri di accoglienza non ci sono più, che gli stranieri non ci sono più, se no i militari che fanno? No, bisogna prima... La prima cosa è quella. Smaltire le persone, rimpatriarle. Ma smaltirle in che senso? Smaltimento nel senso di... No, smaltirle nel senso di portarle a casa. Nel frattempo chi dobbiamo dare qualche punizione la mandiamo a fare il servizio di assistenza affinché queste persone tornino a casa. Quindi sarebbe una dittatura militare blanda, non ci sarebbero, diciamo, desaparecidos, nulla. No, una cosa blanda, all'italiana. E in questo caso, quindi, lei è per la parte C, diciamo, le appoggerebbe in modo attivo in questo caso? Se ho tempo, sì, potrebbe anche essere. Alla fine glielo chiederanno, perché non si creda che le dittature mica ti lasciano in pace. Nel limite del possibile, insomma. Parte del suo tempo sarà dedicato a sostenere appunto il governo dell'ordine e la disciplina. Lo farà nel suo ufficio. Sì. Nel suo ufficio potrebbe fare, diciamo, il capo reparto, controlla che non ci siano delle sacche di sovversione nel suo ufficio. Questo va fatto, perché ci vuole una rete di intelligence, penso, sennò che golpe è? Fatto il golpe va controllato che si mantenga l'ordine, penso, non lo so. Sì, poi mi farò dare una mano, ci sarà anche chi è più esperto di me, abbiamo servizi segreti deviati, abbiamo già tutto un... Ma poi il sabato che si fa? Il sabato si fa addestramento militare, sennò che golpe è? Il sabato tutti? No, diciamo che il sabato ci si riposa, dai, bisogna sì, ma sta scherzando, ma dove mai? Il sabato si lavora per il bene della patria. Giuseppe. Buongiorno. Da che parte sta? A, B, C, tanto l'avete capito. A sono quelli che si oppongono, i pazzi, si mettono di fronte al carro armato come il ragazzo a Tiananmen. Allora. B, con i militari al 100% da subito, li appoggia, fa delle truppe di civili fiancheggiatori. B sta a casa e aspetta a vedere che succede, magari tante volte c'è un controgolpe, non si sa mai. E C sta con i militari. Lei cosa fa di queste tre cose? Allora, se ci fosse il golpe sceglierei l'opzione B, però io sono anche dell'idea che dubito che dei militari si mettono a fare un golpe, perché la situazione è così ingarbugliata che il giorno un attimo, mica lo fanno i Boy Scout il golpe, lo fanno i militari, è chiaro. Anche se lo fanno i militari, il giorno dopo che viene fatto il golpe, la gente si aspetterebbe che tutte le cose funzionassero come un orologio. Ma sa che non funziona, ormai comandano i militari, stanno zitti, non posso manco poter, perché sarebbero aboliti tutti gli scioperi, le proteste, stanno zitti. Ma ci sono delle situazioni per cui se non si parte da un minimo di coinvolgimento delle persone a livello locale, perché bene o male si diano loro un minimo di disciplina, di capacità di si ottiene, scusi, no, che golpe è? I militari, una volta il potere si ottiene da essere una cosa, una guerra lampo, in una notte si conquistano i centri del potere, lei domani vede per strada c'è un carro armato, hanno vinto i militari, e poi comincia l'opera di rieducazione della popolazione, chiaro? L'opera di rieducazione della popolazione, secondo me, è una cosa molto difficile, richiede decenni, se non qualche secolo. Giuseppe, non ci siamo. Decenni in democrazia, In caso di golpe richiede pochissimo tempo, si fanno i campi di rieducazione, la gente si rieduca, se no scusi che golpe è, se no siamo in democrazia, le cose piano, lentamente, convincendo, campi di rieducazione, questo penso che accadrebbe, no? Sì, però in quel caso basta poco. Ricorda quello che è successo il 26 di luglio del 43. Beh, non ero nato, però sì. La gente si accorta, al fascismo non va più bene. Per anni l'ha appoggiato, perché la gente appoggia in base ai risultati, vede, non vede. Quindi, ma lì perché hanno perso la guerra, era chiaro, la gente si è protestata. Vabbè, perso la guerra, però in Germania una cosa del genere non è successa, nonostante i tedeschi subissero batoste. E quindi lei dice, cioè, conoscendo gli italiani, ma non credo che i militari rifarebbero... C'è un carattere nazionale italiano. Ma non rifarebbero gli sbagli del passato, Giuseppe? Un golpe oggi, abbiamo strumenti scientifici, c'è internet, c'è sì, la rete ADSL, non è che si perde tempo, ma quel tempo lì a convincere le persone, è tutto più veloce, ci sono sì, strumenti elettrificati che fanno miracoli, ci sono componenti chimici, che altro che l'olio di ricino, si otterrebbe comunque il consenso, lei stia tranquillo che sarebbe senz'altro sicuro. Lei comunque allora, lei valuterebbe, visto che lei ha un dubbio, casomai non ce la facessero, che la gente poi non li appoggia, meglio stare a casa, quanti sono i tempi in cui lei guarderebbe alla finestra per capire chi vince? Una settimana, un mesetto? Beh, forse anche meno per quello, però... Sì, ma se dopo una settimana sono tutti per strada a marciare con i militari, scende anche lei, che sta a fare a casa? Rischia di passare dalla parte del nemico? Beh, se uno ha bisogno di lavorare, è chiaro. Che si allinea. Governo di turno, questo... Perfetto. È d'accordo, però... Questo, Giuseppe, è chiaro, basta, se no andiamo avanti. Giuseppe, comunque, rimane nella posizione, diciamo, di meditazione per poco tempo. Lui dice, non si sa mai, gli italiani non ci fidiamo, magari il giorno dopo il golpe va a quel paese, perché gli italiani tradiscono chi ha fatto il golpe, chi vuole la disciplina. Aspettiamo un attimo e poi ci allineiamo. Fermiamoci un istante, poi sentiremo da chi ha fatto il sondaggio se i termini della risposta, dal sito che lo ha proposto, sono gli stessi di questo piccolo campione di pubblico che abbiamo preso dai nostri ascoltatori. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Contemporaneamente i militari hanno proibito i capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky, scioperare, la libertà sindacale, Durkà, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, Beatles, Albi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z, che vuol dire è vivo in greco antico. Questa è musica per le nostre orecchie, un po' datato, perché il film di Costa Gravas, Z, l'orgia del potere, del 69, allora in un ipotetico immaginario paese mediterraneo, che poi era la Grecia, perché di quello secondo me si parlava, visto c'era Irene Papas, a un certo punto c'è un golpe militare, attraverso i meccanismi tortuosi del seminare terrore e paura e minare le basi, l'idea dello Stato, alla fine c'è il golpe. E questi sono il primo decalogo di cose da proibire. Naturalmente, se è un golpe che si rispetta, bisogna proibire delle cose. Ricordo che noi siamo partiti da un sondaggio fatto in rete dal sito scenarieconomici.it, chiedeva appunto ai suoi lettori tre risposte rispetto a una possibile scesa in campo di militari che facessero un golpe in Italia per restaurare l'ordine finalmente in un paese che ormai non ha più fiducia nei governanti, non ha più fiducia nello Stato, nei poteri, in niente. Quindi i militari risolvono tutto, portano un periodo di stasi la democrazia, si dice sempre così. Si dice sempre che questo è un governo provvisorio, poi tutto sarà diciamo normalizzato, si tornerà alla democrazia, ma una volta che i militari stanno nei palazzi del governo difficilmente mollano l'osso. Tre risposte venivano suggerite. Scendete in piazza, vi opponete, ponete il vostro giovane petto di fronte al piombo dell'oppressore. Non è fregato niente a nessuno, l'8%. State a casa prudentemente, vedete che aria tira, se poi vincono davvero scendete in piazza e dite bravi, se non vincono scendete in piazza e dite liberiamoci da questo gioco oppressore. Terzo, che è la risposta che ha avuto maggior consenso, ma il pubblico nostro ce lo sta confermando, Scendo in modo attivo, aiuto i militari a fare il golpe. Antonio Maria Rinaldi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti i radioascoltatori. Antonio Maria Rinaldi, docente di finanza aziendale all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara e promotore del blog di economia scenarieconomici.it. È il blog da cui è partita questa idea, che penso che anche per voi sia nata come una boutade, una provocazione. Una provocazione, esatto, è una provocazione. Noi quotidianamente siamo sul web, Facebook, Twitter, lo stesso blog Scenari Economici, e ci siamo accorti che... Ma voi chi siete in generale, quando dite noi, un gruppo di osservatori? Noi siamo un gruppo di amici, siamo 7-8 amici che ci dividiamo le sorti di Scenari Economici quotidianamente. Naturalmente i contenuti sono prevalentemente economici. Quindi è un sito specifico, questa volta siete un po' usciti da... Però è tra i più seguiti in Italia, perlomeno dai numeri che registriamo ogni giorno. E abbiamo voluto per l'appunto lanciare una provocazione. Cioè, noi ogni giorno sondiamo proprio, vediamo il polso, sentiamo il polso, che c'è un disagio enorme. Ma scusa, le persone che hanno votato sono quelli che seguono il vostro sito, quindi in linea di massima seguono la vostra linea di analisi, quindi diciamo anche voi tutto sommato sareste quasi propensi che questa potrebbe essere una soluzione, una domanda innocente. Sì, questo è vero. Naturalmente noi abbiamo fatto questo sondaggio senza nessun crisma di professionalità, ma né lo volevamo fare in questi termini. Abbiamo soltanto voluto lanciare una provocazione per vedere fino a che punto... Sì, con Google Analytics, che è uno strumento alla portata di tutti, però sì, non è uno strumento statistico raffinato. Però, esatto. Però scusi, lei ha notato lei che la risposta di un pubblico della radio, che questa mattina è in diretta senza nessun preavviso, è perfettamente in linea. È la stessa, mi sembra che corrisponde... Perfettamente. A grosso modo quello che dite voi. Però c'è da fare una diciamo. Non c'è uno, però ha notato che non c'è uno che ha telefonato per dire no, mi oppongo, ma siamo pazzi, scendo in piazza, niente. Sì, però attenzione, una cosa è il web e una cosa è la radio. Cioè, è più facile spingere un pulsantino sulla casella e fare i bravi, dire io mi oppongo, sì, che uscire, metterci la faccia in prima persona, anche se a dire la verità moltissimi commenti, quindi la gente si è messa anche a scrivere, e quando si scrive si sa chi è, dei commenti veramente incredibili. Quindi secondo lei il risultato sarebbe ancora più drastico nei confronti, sicuramente, diciamo, quindi diciamo, però, per fare i bravi, come quando dici cosa guardi in televisione, guardo Piero Angela, capito? Invece guardi, che ne so, YouPorn, ecco, queste cose hanno fatto i bravi, un po' un gruppo di persone dalle loro terrazze hanno detto no, io scenderei, combatterei, mi opporrei, difenderei la libertà. Sì, però questo dà la situazione che in Italia c'è un malumore generalizzato, cioè vediamo ogni giorno sempre di più che c'è un logorio nei confronti della politica, perché la politica non sa più interpretare le esigenze dei cittadini. Ma questa è anche un po' la linea di pensiero che esprimete nei vostri studi. Se non c'è la politica, cosa sostituisce la politica? No, sicuramente, questo è vero, ma proprio per questo noi abbiamo fatto un sondaggio provocatorio per dire, in ultima analisi, visto che la politica è fallita, perché è fallito nei confronti dei rapporti con l'Unione Europea, perché bene o male siamo sudditi passivi di un'Europa germanocentrica, abbiamo visto... Quindi il vostro è una linea sovranista, diciamo, per dirla in termini... No, la nostra linea è, la nostra linea è per il ripristino delle garanzie costituzionali. In questo momento le garanzie costituzionali non sono del tutto garantite, in tutti i campi, non iniziamo a vedere... Per paradosso, domanda paradossale, polemica. Secondo lei, ammesso che potesse essere un'opzione quella del golpe, non la diamo, però diciamo che in un momento di grande caos in cui la politica non dà risposte, la gente è disorientata, ci fosse qualcuno che in buona fede, come ha detto il primo ascoltatore, non militari cattivi che butta la gente dagli aerei o fucilano, militari buoni che diciamo ci pensiamo noi, come che ne so, quando i militari che presidiano le metropolitane per salvarci dai terroristi, ecco, una cosa del genere. Quanto dovrebbe durare questo periodo, diciamo, di rimessa a posto dell'Italia? Allora, infatti, lei ha colto nel punto focale. Noi nella originaria richiesta, perché c'era un cappello chiaramente al sondaggio. Sì, ho semplificato io. Esatto, no, giustissimo. C'era scritto, cioè l'invito era, sareste d'accordo a una sorta di golpe, fra virgolette, militari, affinché l'esercito, quindi forze di polizia, carabinieri, forze armate in generale, prendano per un periodo limitato di 18 mesi e poi si provveda a delle... Ma chi dà loro il mandato di stare 18 mesi al posto dell'istituzione? Ah, no, ma è chiaro, già il golpe, mandato non glielo dà nessuno. Manu militari, già... certo. Però nel caso, arrestano Mattarella, arrestano Gentiloni, tutti questi... Io non andrei addirittura a dire questo, perché sicuramente in Italia ci sarebbe un golpe all'italiana. Non ma Mattarella mica starebbe lì inerme a dire, cioè non è come fa come il re d'Italia al tempo della marcia su Roma, si opporrebbe, direbbe no, non mi sta bene, le garanzie della Costituzione, va messo in qualche maniera in sicurezza per il periodo, penso, del ripristino dell'ordine, immagino, non lo so. Io dal punto di vista prettamente tecnico, ma non in maniera violenta, facendogli capire, presidente, 18 mesi, sì. 18 mesi vada a fare a Castelfusano, vada a farsi una passeggiata, quindi è un golpe a tutti gli effetti, però dai risultati gli italiani sarebbero favorevoli. Io mi rimetto a questo, cioè siamo chiari. Se io dico passerà per tutti, una gran parte degli italiani è favorevole, grazie. È una soluzione radicale che sembra che possa rendere felici tutti. Però guardi, a dire la verità, io l'ascolto sempre, sì, anche con molto piacere. L'ultima affermazione che ha fatto, mi sembra che ultimamente non siano tutti quanti d'accordo, mi sembra. Quelli che non sono d'accordo ci penseranno i militari. Anche qui non tutti non sono d'accordo, però diciamo, fra coloro i quali stanno a casa alla finestra a guardare e pronti però a battere le mani e coloro i quali invece si schierano direttamente, siamo al 91%, cioè un plebiscito. Ecco, lei, rispetto alla lista fatta da Costa Gravas a fine anni 60, per paradosso, paradossalmente, quali sarebbero le garanzie temporanee di limitazione di quelle che sono le libertà basilari di espressione, di giudizio, di pensiero, che andrebbero date? Lui limitava che non dire che Socrate era omosessuale, ma ci mancherebbe. Però ci sarebbe qualcosa che andrebbe un po' limitato, secondo lei? Le rispondo non come Antonio Rinaldi, ma le rispondo come hanno di fatto risposto tutti quanti quelli che hanno interagito con noi. E tutti hanno detto, tanto peggio di così. Cioè, quindi qualunque cosa, quindi, esatto. Su quale piano bisognerebbe lavorare? Perché Euripide, Aristofane, Ionesco fa ridere e limitare. Quale sarebbe un autore, secondo lei, che oggi un golpe militare dovrebbe vietare? Ma Saviano, un esempio. Più che autore andrei a rivedere chi era Cincinnato, che nelle primissime repubbliche romane si poneva come dittatore temporaneo e poi lasciava a tempo la sua funzione. Ma c'è, però Cincinnato, oggi chi si andrebbe a ripescare per avere questo ruolo? Non è come nel film di con Tognazzi, che andavano a prendere le vecchie mummie. È una carina parodia. Ma lei vede persone in grado di avere il carisma per essere, diciamo, il capo politico di un golpe militare? I militari fanno il golpe, poi devono trovare un presidente. Certo. E chi potrebbe essere? Io credo che in Italia ci siano diciamo attualmente investiti da cariche politiche, ma persone, professionisti estremamente... Mi faccio validi. un nome per capire. Dappertutto ci sono, non voglio fare un nome specifico, ci sono sicuramente in tutti i campi, sia dei liberi professionisti, nel campo dell'universitario, nel campo dell'industria, persone estremamente valide. Ma il vostro sito già sta creando questa ipotetica rete di persone valide pronte a darsi la Non abbiamo nessuna funzione politica se non quella di sondare, in questo caso, l'umore degli italiani. Allora, fermi un attimo, se ascoltare con me. Luigi è una testimonianza che vale la pena di ascoltare. Luigi, buongiorno. Nicoletti, buongiorno, chiamo da Venezia. Sì, l'ascoltiamo. Ho ascoltato le ultimissime considerazioni di chi mi ha preceduto. Guardi, l'Italia non ha una tradizione rivoluzionaria. L'Italia ha avuto qualche giornata territoriale per i tornati, Luigi, la sentiamo malissimo. Facciamo così, diamo la pausa necessaria in questo momento, la richiamano, perché lei è importante, una testimonianza, ha 82 anni Luigi, quindi ha un vissuto di storia molto più pregno e denso del nostro per darci il suo punto di vista sul possibile golpe che vorrebbero la maggior parte degli italiani, almeno dagli indicatori imperfetti, imprecisi ma efficaci che abbiamo in questo momento sotto mano. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Ad onta del nostro bieco pregiudizio sull'incapacità degli italiani di opporre il loro giovine petto al piombo del nemico oppressore, in questo caso dei golpisti, Elisabetta decisamente si schiera con il gruppo A. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Lei scenderebbe in piazza contro i militari? Ma subito, ma come quel ragazzo di Tiananmen, penso anche che sia la cosa da fare, cioè il prima possibile, prima che acquistino sempre più potere, tutti dovrebbero scendere. Quindi in lei piazza immediatamente. Organizzerebbe una resistenza immediata? Ma non saprei da dove cominciare, però sicuramente io e tutti quelli che conosco tenterei di coinvolgerli. Lei è convinta che c'è un sacco di amici suoi che appena sente le prime cannonate in piazza, vede i primi sacchetti di sabbia, i primi cavalli di Frisia, vede girare le baionette sotto le vostre finestre, scendono e dicono no, noi ci opponiamo. Lei è convinta? Ma qualcosa del genere, sì. No, non sarebbe neanche lontanamente accettabile una cosa del genere. Mi viene in mente i paesi sudamericani, la Grecia, che sono simili a noi per vicinanza e per cultura, che sono latini. E lì sono successe delle cose terrificanti. Io vorrei anche da noi non è che hanno scherzato. Sì, esatto, però parlavo in termini più recenti. Certo, oltretutto anche qui da noi abbiamo avuto dei bei danni. Non capisco a che cosa si riferiscono queste persone quando dicono un golpe all'italiana. No, si riferiscono un golpe non cruento. Abbiamo già detto, invece le oligricino le suppostine effervescenti, invece che lo sterminio degli umani campi da calcio in cui le persone vengono convinte in maniera quasi umana a cambiare idea. Queste cose qua, niente di cruento, questa cosa immagino, penso che le persone pensassero. Deve essere un golpe morbido, almeno nell'idea. Nessun golpe si presenta come un golpe duro, la gente è un po' spaventata. Un golpe morbido che però il giorno dopo pensi che bello, la disciplina, le strade pulite, tutto funziona, i treni arrivano in orario, non ci sono più quelle persone che la sera stanno per strada e bevono le birre e fanno schiamazzi, non ci sono più quelle brutte persone che minano alle basi le nostre istituzioni familiari. Insomma, diventa un bel mondo come una volta, come tutti volevano. E lei vorrebbe opporsi a questo? Certo, mi opporrei a questo perché non crederei neanche per un attimo che un golpe porterebbe tutto questo benessere, questa disciplina. Non mi sembra di ricordare in Sud America tutta questa ordine, ci sono solo tanti militari ovunque. Quindi no. E poi comunque che cosa significa? Non li ammazzeremo, non li butteremo nel mare con gli aeroplani, li picchieremo solo un po'? E con i giornalisti che ci facciamo? Chiudiamo tutti i giornali. Cioè, quello è il minimo, è che la libertà di stampa è la prima cosa che deve essere elevata. Questo sono il primo a dirlo, sennò che golpe è? Il golpe con la libertà di stampa è un controsenso. Mimmo, gruppo A anche lei? Mi è caduto, era il gruppo A, però non ha avuto poi il coraggio di impugnare la sua ipotesi. Lorenzo? Pronto? Quale gruppo? A, B, C? A. Ah, anche lei diciamo, organizza la resistenza. Ok, no, io vorrei partecipare a organizzare il colpo. Lei è un golpista. Allora lei cosa fa? Andrebbe subito, appena vede i carri armati, a bussare alla garitta del mitragliere? No. Prima di farlo cercherei di avere l'appoggio della Marina e dell'aviazione. Dopo c'è la marina perché costeggia e tutte le città di mare. No, la marina perché non puoi fare un gol se non c'è qualche apparato militare a tuo favore. Sono i due che c'hai in mano tutto dopo. Vabbè, tutta l'Italia insulare e le coste sarebbero presidiate dalla marina. Dopo assalterei la televisione di Stato, Rai 3. Anche il golpe borghese ci hanno provato, sì, ma lì hanno messo 2000 manette così. Vabbè. Sì, però scusi, no, allora c'era solo Rai 1 a quel tempo, oggi c'è Sky, Mediaset, La 7, cioè quante televisioni dovrebbe colpire in questo momento? Ne sequestrerei una per parlare e alla gente gli spiegherei il programma che abbiamo da fare. Ma lei cosa sceglierebbe? Digitale terrestre o TV satellitare, per capire? No, terrestre. Rai 1. Allora, digitale, chi se ne frega, i digitali conta così per i giovani. Oggi il digitale terrestre è la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, quelle cose Rai lì triste. Una per parlare dicendo alla gente. Però scusi, lo schema non è cambiato dagli anni 70. Sì, si conquista la Rai. Cambiato, ma abbiamo anche peggiorato dagli anni 70 in poi. Allora sarebbe stato il comandante borghese, oggi chi c'è? No, cosa c'entra borghese? No, perché lo mette sotto che era fascista. Qua e là, no? Il golpe tanto democratico. Un bel piano con tutta la gente onesta, vabbè, vuol allora, prendere il potere. Onesta, tranquilla. Tranquilli. Allora, fermo un attimo. Ascoltiamo Eliana. Eliana, chiude la trasmissione. Eliana, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Allora, io non devo fare supposizioni, perché la dittatura l'ho vissuta in Argentina nell'anno 76, quando c'è stato il golpe, e devo dire che le ragioni che hanno portato le persone a pensare che la dittatura militare potesse risolvere i problemi gravissimi socio-economici che c'erano, è stata proprio questa situazione di grosso disagio. Quindi lei ricorda, Eliana, che a monte del golpe c'era un consenso generale, una speranza che il golpe argentino avrebbe risolto i problemi? Sì, esatto. E loro sono arrivati dicendo che avrebbero fatto il famoso processo di riorganizzazione nazionale. E quando la gente spariva, noi non lo sapevamo, perché, come abbiamo detto fino adesso, i mezzi allora non erano diversi, quindi cioè, i cellulari non esistevano, se ti spariva un compagno dell'università non è che avevi il suo numero di fisso. Eliana, mi è sufficiente quello che ha detto. Lei ha detto una cosa fondamentale: anche il golpe d'Argentina nacque su un consenso generale, perché la gente pensava che sarebbe durato poco e avrebbe rimesso a posto le cose. Basta così, non dobbiamo dire altro. Alla prossima.